Caterina Sforza, statista, alchimista e le sue antenate. Come scuola delle donne, pensiamo che il DNA matrilineare, come quello mitocondriale, si tramandi di antenata in discendente e venga preservato, riemergendo periodicamente nelle azioni di grandi donne della stessa linea dinastica. Maifreda da Pierovano Visconti. Maifreda da Pierovano, di cui abbiamo tanto parlato perché è la papessa, la vicaria di Guglielma, quindi la ricordate tutte perché è una delle nostre madrine, nacque nella seconda metà del 1200, imparentata con la potente famiglia Visconti. Era prima cugina di Matteo Visconti, nacque a Milano, nipote dell'arcivescovo di Milano Ottone Visconti, capitano del popolo. E primo signore di Milano della dinastia Visconti. Fino alla sua morte, Matteo governò l'intera Lombardia. Stiamo parlando del 1200, quindi siamo circa 2 secoli prima di Caterina, perché Caterina aveva radici antiche, aveva antenate illustri. Tra queste antenate ci fu niente po' di meno che Maifreda. Quindi Matteo governò l'intera Lombardia, una parte del Piemonte e dell'Emilia-Romagna. Di sua cugina Maifreda abbiamo diffusamente parlato come scuola delle donne. Fu vicaria della chiesa guglielmita e capo dell'ordine beghinale delle Umiliate di Biassono. Quindi abbiamo parlato di Maifreda a proposito delle beghine, perché lei fu beghina e fu ed è stata la vera papessa, quella dei tarocchi, perché era la vicaria della chiesa guglielmita, quindi una donna papa. Una donna di enorme statura intellettuale e spirituale, finita nelle maglie dell'Inquisizione e arsa viva insieme ai resti riesumati di Guglielma la Boema, di cui si considerava rappresentante. Un'analisi storica vuole che sia Maifreda la vera papessa dei tarocchi viscontei. Maifreda avrebbe potuto fuggire e scampare al processo perché era stata avvisata, ma non lo fece. E rimase fedele al suo credo, che lei credeva in Guglielma, lei credeva che Guglielma fosse la manifestazione femminile divina. Quindi la chiesa guglielmita è una chiesa che ha una dea, che crede in una dea perché Guglielma era la manifestazione in terra della forza divina e Maifreda era la sua papa. Quindi è una chiesa matrilineare, matriarcale, femminile. Rimase fedele al suo credo e alle persone che l'ascoltavano dire messa. Affrontò a testa alta il solito processo farsa per eresia e l'orribile morte che ne conseguì. Come Margherita Porete, come altre, come Giovanna d'Arco, non ritrattò, preferì salire sul rogo piuttosto che macchiarsi di una bugia, quale il dire no, non è vero quello, tutto quello che ho sempre sostenuto, lo rinnego per salvarmi la pelle. Ecco, no, non lo ha fatto. La sua tempra si tramandò a Bianca Maria, nata 2 secoli dopo, nella stessa famiglia Visconti, che ebbe il dominio su Milano prima degli Sforza. E si manifestò poi ampiamente in sua nipote Caterina. Caterina era la nipote di Bianca Maria ed erano entrambe discendenti da Maifreda, che era una Visconti. Una delle grandi signore del Rinascimento, età aurea, delle regine, di cui pure abbiamo diffusamente parlato. Abbiamo ricordato Isabella e Beatrice d'Este, divenute rispettivamente signora di Mantova e signora di Milano, Elisabetta da Montefeltro, signora di Urbino, e Lucrezia Borgia, divenuta signora di Ferrara in seconde nozze. A queste donne si aggiunge negli stessi anni Caterina Sforza, signora di Imola e Forlì, la cui forza, bellezza, intelligenza e astuzia sono diventate leggenda. La dinastia degli Sforza, signori di Milano, iniziò grazie al matrimonio, ovviamente combinato, tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, nonna di Caterina. Quindi gli Sforza cominciarono proprio con i nonni di Caterina, per l'unione tra un Visconti, scusate, tra uno Sforza, il primo degli Sforza, e una Visconti. I nonni di Caterina, appunto, Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, che furono per lei furono fondamentali. Bianca Bianca Maria, in particolare, sua nonna, fu cruciale nell'educazione della bambina, che da lei ereditò il carattere orgoglioso, fiero, deciso e combattivo. Questa è veramente un'antenata che darà un grosso apporto ad Amorvilla, perché è una donna veramente di una tempra guerresca, ma contemporaneamente anche una studiosa, un'alchimista, veramente una donna con tantissime sfaccettature. Bianca Maria Visconti Sforza, adesso parliamo della nonna di Caterina. Il contratto di fidanzamento tra Bianca Maria e Francesco venne ratificato nel 1432 presso la residenza milanese dei Visconti, quando Bianca Maria aveva 8 anni. Come padrino d'anello di Bianca Maria fu indicato Andrea Visconti, che era generale dell'Ordine degli Umiliati, lo stesso ordine beghinale a cui apparteneva Maifreda. Con quel matrimonio il Ducato di Milano passava dalla guida dei Visconti alla guida degli Sforza. In realtà però la presenza di Bianca Maria Visconti fu fondamentale. Bianca Maria trascorse l'infanzia e l'adolescenza in un clima culturale di grande apertura. Ricevette formazione umanistica, ma fu anche abile cacciatrice e capace di maneggiare le armi con disinvoltura. E tutto questo lei lo tramandò alla nipote. Poiché il marito Francesco Sforza era spesso assente alla guida dell'esercito, e questo l'abbiamo visto per tutte le grandi regine del Rinascimento, quando non c'erano i mariti, che era spessissimo, perché i mariti erano in guerra, erano loro che tiravano le redini e che governavano, e governavano bene anche. Infatti erano tutti stati molto ricchi, perché erano in mano alle donne. Quindi Francesco nominò la moglie reggente, però la nominò lui, quindi ebbe grandissima fiducia nella moglie. Non tutti i mariti nominavano le mogli come reggenti, alcune non lo facevano, alcuni non lo facevano e quando tornavano, come nel caso di Isabella, regolarmente quando il marito tornava dopo essere stato in guerra, si riprendeva in mano le redini del ducato e infatti ricominciavano i problemi. Invece, nel caso di Francesco Sforza, lui proprio nominò reggente la moglie, appena 17enne, e scrisse: Poniamo a capo di tutta la nostra provincia l'inclita e illustre nostra consorte Bianca Maria. Le affidiamo tutto il governo della medesima affinché vi ponga. Sentite che meraviglia, la prudenza, l'equità, la clemenza e la grandezza d'animo, virtù delle quali la nostra consorte è per natura e per educazione grandemente fornita. Una dichiarazione d'amore meravigliosa a una fanciulla di 17 anni, che comunque meritò questa fiducia e questo amore, e adesso lo vedremo. Francesco condivise con la consorte Madonna Bianca sia le decisioni politiche e amministrative che l'attività diplomatica. Dai carteggi emerge che Bianca non aveva remore a esprimere le sue opinioni quando dissentivano da quelle del marito. Francesco coinvolse Bianca Maria nel governo del ducato, tanto che i castellani prestarono anche a lei giuramento di fedeltà, ufficializzandone la correggenza. La saggia e gentile Bianca Maria fu un'ottima guida, tanto in ambito politico e diplomatico, quanto sul campo di battaglia a fianco del consorte. Questo purtroppo non successe a Caterina. Caterina dovette sbrogliarsela da sola perché non fu per niente aiutata dai mariti, pur avendo i meriti, insomma. Torniamo però alla nonna Bianca Maria, perché è una figura importante che bisogna conoscere per capire tante cose poi di Caterina. Allora, Bianca Maria e Francesco ebbero 2 figli maschi, Galeazzo Maria, padre di Caterina, e Ludovico, detto il Moro, di cui avete sentito parlare perché fu il cognato di Isabella e il marito di Beatrice, cioè della sorella di Isabella. Dunque, Ludovico, detto il Moro, che si legherà alla potente famiglia degli Estensi di Ferrara sposando Beatrice e farà ampiamente parlare di sé. Alla morte di Francesco, il nonno, il primogenito Galeazzo Maria, papà di Caterina, nuovo duca di Milano, fu in un primo momento deferente verso la madre, Bianca Maria, ma appena si sentì più sicuro, cominciò a fare di testa propria e cominciarono i problemi, perché era avido, era prepotente, era incostante e queste caratteristiche le aveva avute fin dall'infanzia, Fino a un certo punto era stato sottomesso dal carisma, dall'autorità della madre, ma poi lì purtroppo vigeva che il figlio primogenito prendeva in mano le redini. Purtroppo non si poteva evitarlo. E quando il figlio primogenito era un disastro, la cosa non cambiava. Lo Stato rimaneva nelle sue mani e i problemi c'erano perché ufficialmente era lui che guidava. Presto, infatti. Lo scontro con la madre divenne duro e Bianca Maria, la quale, malgrado fosse una governante migliore del figlio, era una donna e dunque dovette assistere al voltafaccia di tutti coloro che si erano dichiarati fedeli al suo primogenito, tutti coloro che prima avevano giurato a lei. Dopo, siccome comunque il potere per legge andava al maschio, per non inimicarsi colui che avrebbe ereditato, il potere, voltarono le spalle a Bianca e giurarono invece fedeltà a Galeazzo Maria. E quindi lei dovette ritirarsi a Cremona, sua città dotale, e vi morì all'età di 43 anni, probabilmente avvelenata dai sicari del figlio Galeazzo Maria, padre di Caterina, che era veramente un personaggio tremendo. Adesso lo capirete, perché adesso arriviamo a parlare di Caterina. Sforza Riario, che ebbe un padre orribile, un marito ancora peggio e un secondo marito peggio ancora. E nonostante questo, riuscì veramente a ricavarsi un ruolo, a tirar fuori la grinta, a sopravvivere e a diventare una leggenda vivente e anche non più incarnata, veramente una donna leggendaria. Caterina Sforza Riario. Caterina nacque nel 1463, quindi 2 secoli dopo Maifreda. Figlia illegittima di Galeazzo Maria e di Lucrezia Landriani, che era la sua concubina, insomma, oddio, mi sfugge il nome, come si chiamavano? Quelle dei la sua favorita. La nonna Bianca Maria aveva appena 31 anni quando nacque Caterina ed era nel pieno delle sue forze, ma purtroppo il figlio Galeazzo Maria spadroneggiava e umiliava tutti intorno a sé, impedendo alla madre, cioè alla nonna di Caterina, di governare. Caterina visse la sua infanzia nel Ducato di Milano, quindi nel Ducato degli Sforza. Ricevette un'istruzione che spaziava dalle scienze umanistiche alla botanica all'erboristeria. E inoltre fu istruita, insieme ai fratelli, anche nel combattimento e nelle tecniche della guerra, dimostrando le sue abilità già da bambina. Conobbe le armi e il loro uso, tanto che il cannone, arma della quale si saprà servire ampiamente, rimane legato alla sua fama di guerriera per l'uso quasi magico che ne fece durante gli assedi. Caterina aveva la capacità di usare le armi come fossero in maniera psicomagica. Lei era sicuramente una sciamana, quindi lei non si limitava a sparare coi cannoni, lei faceva veramente delle operazioni sciamaniche. E tra un po' lo vedremo. Faceva incidere frasi oscene sulle palle del cannone prima di spararle sui nemici, come fossero degli scongiuri, no? Come vedremo. Fu adottata, Caterina, abbiamo detto che era figlia di Lucrezia Landriani, che era l'amante di Galeazzo Maria, ma fu adottata dalla moglie di Galeazzo Maria, la mite e generosa Bona Visconti, moglie di suo padre, insieme al resto della prole di Lucrezia. Tutti i figli di Lucrezia furono adottati dalla moglie di Galeazzo. Durante l'infanzia di Caterina era Papa Sisto IV, campione di nepotismo. Sapete che il nepotismo è quando i papi favoriscono i loro figli e i loro nipoti, gli danno loro i feudi e tutte le ricchezze possibili. Il quale aveva assegnato al nipote, questo Papa Sisto IV, aveva assegnato al nipote Girolamo Riario la carica di capo delle milizie papali. Il padre di Caterina, Galeazzo Maria, uomo senza nessuno scrupolo, guidato dall'avidità, aveva concordato un'alleanza col Papa che lo avrebbe rafforzato nella competizione con gli aragonesi stanziati in meridione per il potere sulla penisola. Nel sud Italia c'era la dinastia aragonese. In cambio del favore papale avrebbe dato in moglie a Girolamo la nipote Costanza di 11 anni. e Girolamo sarebbe divenuto signore dei feudi sforzeschi di Imola e Forlì. A quell'epoca però, dunque, la prassi era che una ragazzina al compimento del 14° anno di età era considerata pronta per il matrimonio, a tutti gli effetti. Nel caso in cui, come avveniva quasi sempre, le nozze venissero celebrate quando la bambina non aveva ancora quell'età, perché spesso venivano sposate che avevano 7-8 anni, vigeva la condizione che la fanciulla continuasse a vivere in casa, nella casa di famiglia fino al compimento dei 14 anni, quando veniva considerata pronta per il letto del marito, perché quello era lo scopo del matrimonio, non ce n'era un altro. Ma quando la madre di Costanza, che era una Gonzaga, seppe dell'intenzione di Riario di voler consumare immediatamente il matrimonio con la sua figliola Costanza, che aveva, abbiamo detto, 11 anni, appena 12 anni, scusate, che aveva appena 12 anni, vi si oppose fermamente. Quindi rifiutò la sua figliola alle nozze. Una volta ricevuto il rifiuto, Girolamo Riario minacciava di mandare a monte gli accordi tra i signori di Milano e lo zio Papa. E quindi il Galeazzo Maria, il papà di Caterina, che aveva dei progetti, che si voleva legare al Papa per motivi di ampliamento della sua area di influenza politica, si trovò che non poteva più mandare avanti questi progetti perché la mamma della bambina che do lui dove di sua nipote che lui doveva dare in moglie si rifiutava di permettere che la bambina a 12 anni entrasse nel letto coniugale, voleva proteggere la figlia. E quindi lui pensò bene, siccome era uomo di nessuno scrupolo, perché il fatto era che senza la consumazione il matrimonio non era considerato valido e quindi poteva essere annullato. Per questo Girolamo Riario voleva consumarlo subito, non voleva aspettare i 14 anni della bambina, anche se la prassi era quella, perché aveva paura che nel frattempo, come era già successo, i genitori con Lucrezia, per esempio Lucrezia Borgia, diverse volte il matrimonio era stato annullato per questo motivo. Quindi che il matrimonio fosse annullato dal Papa, considerato non valido perché non era stato consumato. Mentre Girolamo voleva assicurarsi di imparentarsi con gli Sforza, perché questo era il patto, no? Il patto in maniera che il Papa, suo zio, desse alla famiglia Sforza del potere. Quindi Galeazzo Maria Sforza è chiaro, no? È chiaro tutto il progetto e nel quale si sono trovate coinvolte queste due bambine. Galeazzo Maria Sforza, dunque padre di Caterina, di fronte alla possibilità di perdere questa opportunità di legarsi al Papa, pensò bene di dargli Caterina, di dargli sua figlia, che era addirittura più piccola della cugina Costanza. E lì non ci furono possibilità perché la moglie Bona Visconti era una donna debole che non pensò minimamente di opporsi al marito. Quindi non c'era nessuno a proteggere Caterina. E Caterina fu sposata a Girolamo Riario a nemmeno 10 anni. Il padre, la madre adottiva e la madre naturale Lucrezia consegnarono la bambina nelle mani di Riario, costringendola a subire la violenza, perché fu violentata alla fine, aveva no, 8 anni, 9 anni, quando fu permesso che il matrimonio fosse consumato. Quindi fu costretta a subire la violenza per l'onore e il potere della famiglia. Sforza. Il giorno delle nozze la piccola Caterina venne stuprata dal marito, chiaramente ansioso di assicurarsi i suoi privilegi politici. Chiaramente questo avrà influito in maniera terribile sul carattere della bambina, perché lei doveva sopravvivere in qualche modo e da questo probabilmente poi derivò questo suo carattere guerriero e anche alcune azioni molto crudeli di cui lei si macchiò. Però, cioè, io posso immaginare, e anche voi, che trauma deve aver ricevuto, perché la cosa fu fatta con i suoi genitori consenzienti, quindi lei fu proprio consegnata come vittima sacrificale senza essere difesa da nessuno, coi genitori, la madre adottiva e il padre consenzienti, e lei dovette subirlo dietro il ricatto: se non lo farai, la famiglia sarà disonorata. Quindi una situazione veramente, una manipolazione terribile di questa bambina. Carla Maria Russo, nel suo ottimo romanzo La bastarda degli Sforza, indaga dettagliatamente il terribile trauma di quello stupro che rese Caterina coraggiosa ma anche crudele e dura per il resto della vita. Si sa che lo stupro è uno dei metodi usati per rendere chi lo subisce docile e manipolabile, annientando la sua volontà e minandone il carattere. È un sistema che si usa proprio anche per addestrare le spie per addestrare, perché annienta la volontà e ti fa diventare una marionetta nelle mani di chi poi ti gestisce e ti comanda. Questo atto brutale che la bambina dovette subire, però, avrebbe potuto trasformarla in una marionetta. Ma Caterina era nipote di Bianca Maria e discendeva da Maifreda, quindi aveva delle antenate che le hanno trasmesso un carattere forte e determinato e quindi lei ha trasformato questa violenza in forza e ne è uscita vincente, come vedremo. Invece, appunto, Caterina fu una delle donne più potenti e agguerrite del Rinascimento. Quindi è proprio questo, è una di quelle volte in cui una violenza viene riconvertita in potenza, diventa qualcosa di non dico positivo perché ebbe una vita difficilissima, ma propositivo, cioè non stare a compiangersi, non diventare delle vittime, ma diventare a nostra volta delle guerriere, no? Trasformando il dolore in potere. La violenza che subì, lei la trascese trasformandola in astuzia e lucidità, ed è questo che come Scuola delle Donne vogliamo onorare. Caterina fu una vittima del potere e dell'avidità degli uomini del suo casato, ma non si comportò mai da vittima. Fu una condottiera e una regina di cui ancora oggi si parla e la sua storia continua a ispirare libri e film. L'anno seguente al matrimonio di Caterina, suo padre, che governava male e non era amato, venne assassinato. La moglie Bona, che fino ad allora era rimasta sempre dietro le quinte, prese la situazione in mano. Caterina intanto era a Roma col marito, che era, ricordiamo, nipote del Papa. Quindi si erano trasferiti tutti quanti a Roma. Lei e il marito praticava la caccia, le corse con i cavalli, era curiosa, colta, aveva doti diplomatiche e in breve, nonostante fosse giovanissima, perché si sposò a 12 anni, per cui era poco adolescente, forse 14-15 anni che lei era a Roma, come moglie di Gerolamo Riario, ma nonostante questo divenne in breve un riferimento per la società romana. Era alta, formosa, bella, con grandi occhi, di carattere autoritario. Dopo vi metto in chat, vi mettiamo in chat io, Cristiana, mettiamo la foto, le foto, le immagini, così potete vedere tutte e tre le donne. Portate, abbiate pazienza, io in questi giorni mi sono dimenticata. Normalmente dovevamo farle, me ne sono proprio dimenticata, però stasera stessa le pubblichiamo in chat. Quindi era di carattere autoritario, terribile, vendicativa e spietata con traditori e nemici, rapida nel ragionamento, sincera nella parola, istruita e desiderosa di apprendere i segreti della natura, dell'essere umano e del mondo. Di grande fama e fascino, diverrà una governante saggia e giusta come la nonna Bianca Maria. All'età di 18 anni, Caterina col marito lasciò Roma per recarsi nei territori a loro assegnati in Romagna e qui finalmente comincia la sua vita di regnante. Territori che facevano gola a molti, specialmente alla famiglia Ordelaffi, che aveva la signoria di Forlì prima che arrivassero i Riario e che il Papa aveva spodestata. All'epoca si usava così. Vedremo che anche il successore, il Papa Borgia fece la stessa cosa per il figlio, per il famoso Valentino. Ogni papa che andava su si prendeva tutto quello che gli faceva comodo e spodestava i signori che c'erano prima. Quindi in quelle terre c'erano gli Ordelaffi che furono spodestati e che non gliela perdonarono mai ai Riario questa cosa, infatti fu lotta continuamente. Così Caterina si trovò ad essere signora di quelle terre di Romagna appartenute a Matilde, tra l'altro. Quindi abbiamo ancora un altro collegamento con una grandissima donna, questa volta non per sangue, ma per legami di terra. Impossibile per noi come Scuola delle Donne ignorare questo collegamento. La forza delle donne si mantiene sottoterra, nelle radici, e riemerge quando serve. In questo caso, tutta la potenza di Manfreda e di Matilde congiunte si manifestò in Caterina, la quale aveva 21 anni quando il Papa Sisto trapassò, quindi il padre, lo zio, scusate, di suo marito. A Roma, rimasta senza guida e in mano a famiglie che si odiavano e combattevano da sempre, si scatenarono inaudite violenze e saccheggi. La residenza romana della famiglia Riario venne depredata e messa a ferro e fuoco da tutti coloro che avevano subito ingiustizie a causa del carattere violento e senza scrupoli di Girolamo Riario, marito di Caterina. Io ogni tanto vi ricordo i nomi perché altrimenti è facile confondersi. Il quale però, essendo capo delle truppe pontificie, avrebbe dovuto immediatamente prendere in mano la situazione e fare dei maneggi affinché venisse eletto un papa a lui favorevole. Avrebbe dovuto farlo subito, era nella posizione di farlo perché era il capo delle truppe, ma avrebbe dovuto farlo tempestivamente, cosa che non fece perché era un uomo debole. Quindi, in modo che gli fossero confermate le sue cariche. Ma Girolamo era inetto e codardo e non aveva un briciolo di visione politica. E così fu Caterina, giovanissima e incinta di 7 mesi, a prendere l'iniziativa. Cosa fece? Occupò la fortezza di Castel Sant'Angelo a Roma, che al momento ancora rispondeva a lei, perché lei era la moglie del capo delle forze pontificie. Quindi al momento ancora lei aveva dominio sul Castel Sant'Angelo, dato che il marito, ecco, era ancora il capo dell'esercito pontificio. Lei cosa fece? Si asserragliò dentro Castel Sant'Angelo, ordinò alle truppe che rispondevano a lei di puntare i cannoni, il cui funzionamento lei conosceva bene perché l'aveva studiato grazie a sua nonna, verso il Vaticano. Quindi fece un'operazione, oggi lo chiameremo un blitz. Un'operazione immediata di una lucidità, di un'intelligenza incredibile perché lei capì immediatamente, il marito non c'era, non esisteva proprio, lei incinta, giovane, si chiuse dentro Castel Sant'Angelo che era una fortezza, quindi non poteva essere né espugnata né invasa. Con le truppe a suo comando, disse i cannoni verso il Vaticano. Lì dovevano obbedire a lei perché altrimenti palle di cannone Vaticano caput. E questo era, lei lo sapeva bene, infatti il Vaticano dovette patteggiare, arrivare al patteggiamento. Vediamo come. Quindi lei ordinò alle truppe di puntare i cannoni, il cui funzionamento conosceva bene, verso il Vaticano, decisa a difendere i suoi privilegi, visto che il marito non lo faceva. Il collegio pensò di trattare, il collegio Vaticano pensò di trattare, ovviamente offrendo a chi? Al marito, perché le donne non contavano proprio nulla. Al marito una somma di denaro e il mantenimento di Imola e Forlì, che erano già suoi, perché si erano già stabiliti loro in quei ducati. E Girolamo Riario, però, che non aveva visione politica, cosa fece? Accettò subito l'offerta, mentre Caterina, al contrario, voleva contrattare per ottenere di più. Per intimidire i cardinali, Caterina chiamò altre truppe. Ma il Vaticano faceva pressione sul marito, ignorava lei e faceva pressione sul marito, purtroppo era il marito quello che comandava e lei dovette obbedire. Il marito non voleva rogne, non voleva combattere, era un vigliacco, quindi gli andava benissimo questo patteggiamento, te ne vai da Roma, non hai nessuna pretesa, ti becchi questi soldi, te ne torni a Imola e Forlì e ci lasci Roma a noi. Ma il consiglio appunto fece pressione sul marito, il quale pretese che la moglie obbedisse immediatamente e lasciasse Castel Sant'Angelo. Però Caterina aveva visto giusto, perché infatti fu eletto un papa avverso ai Riario e Girolamo fu privato della carica di capo dell'esercito pontificio, quindi a quel punto non aveva più nessun potere, e della relativa cospicua rendita, quindi loro si trovarono sì con Imola e Forlì, ma senza soldi. Non erano in grado di mantenere i loro ducati. Caterina era ancora signora di Imola e Forlì, ma senza entrate. A Imola intanto veniva costruita la Rocca di Ravaldino, di cui Cristiana ci ha mandato le foto, che è famosa perché è un'altra fortezza inespugnabile, vedremo tra un po', avrà un'importanza cruciale ancora per questa donna co comandante di eserciti. una delle fortezze più imponenti e inespugnabili della penisola, che a breve sarebbe divenuta importante per la salvezza di Caterina, perché fu tradita e si salvò grazie alla rocca di Ravaldino. La giovane regina aveva la capacità di risolvere situazioni delicate, una immediata lucidità mentale, visione immediata che le veniva dalla nonna, e lei era veloce, era un soldato, una soldata, sapeva cosa fare, lo capiva immediatamente. Visione strategica e intraprendenza. Quindi piano piano si trovò a guidare le sue terre da sola, poiché il marito, inadatto al governo, sempre più le lasciava carta bianca e passava le giornate tra caccia e gozzoviglie. Nel frattempo, Madonna Caterina mise al mondo una femmina e cinque maschi, giusto per non lasciarsi mancare nulla, mentre lei governava, combatteva, guidava gli eserciti, scodellava anche un figlio e una figlia dietro l'altro. Poco tempo dopo, anche Girolamo fu assassinato, perché anche lui era una bruttissima persona, e Caterina però venne imprigionata, perché ci ricordiamo che praticamente i Riario avevano spodestato, il Papa aveva spodestato i signori che c'erano prima, per dare i ducati al nipote. Quindi Caterina venne imprigionata insieme ai suoi figli e alla mamma Lucrezia. Anche in questa occasione non si fece prendere dal panico, ma escogitò un piano. Inviò immediatamente un messaggio a Tommaso Feo, che era un uomo di fiducia suo, che era il castellano della Rocca di Ravaldino, il comandante praticamente della Rocca. Era lei fedele, ordinandogli di tenere la rocca ad ogni costo, di non cederla anche sotto minacce, sotto ricatti, di tenerla e di assecondare i suoi maneggi, perché Caterina aveva un piano. Quindi Tommaso Feo doveva, ovviamente lei non ha raccontato il piano a Tommaso perché c'erano spie, insomma, lei gli ha fatto capire di assecondare la cosa, qualunque cosa fosse successa. E lui è stato abbastanza furbo da darle retta. Così lei ha messo in piedi un intrigo meraviglioso, grazie al quale è riuscita a riprendersi tutto. Vediamo come ha fatto. Quando i nemici di Caterina ordinarono a Feo di abbandonare la rocca, lui rispose, come aveva detto Caterina, che per farlo pretendeva di parlare da solo con Caterina, per ricevere il suo compenso arretrato di capitano. Così a Caterina, con questo alibi, con questo trucchetto, stratagemma possiamo chiamarlo, fu permesso di entrare nella rocca da sola. E lei, astuta come una volpe, una volta dentro ci si barricò, esattamente come aveva fatto già a Castel Sant'Angelo. Si chiuse dentro con Tommaso Fè e con i soldati, fece chiudere i portoni e ancora una volta puntare i cannoni sui punti strategici della città. Rifece la stessa cosa che aveva già fatto, ma questa volta non aveva un marito pusillanime che le impediva le azioni, questa volta era lei che comandava, e infatti la cosa andò a segno, anche se i congiurati ovviamente non mollarono facilmente, perché avevano in mano i suoi figli, minacciarono infatti di uccidere i figli sotto i suoi occhi, ma Caterina bluffò, bluffò alla grande, e infatti la cosa andò a suo favore. Era una grandissima giocatrice, una grandissima stratega, aveva un sangue freddo incredibile. Pensate, le hanno fatto vedere i figli con le armi puntate sotto la rocca e lei non si lasciò impressionare. E qui entra in gioco un'azione incredibile che lei fece, di cui adesso ci parla Cristiana, perché Caterina fu protagonista di un fatto divenuto leggendario. Per niente intimidita, salì sulle mura della rocca. Sollevò la gonna sopra l'inguine, mostrando il pube, e gridò: "Uccidete pure i miei figli, tanto ho qui lo stampo per farne altri". Naturalmente era un bluff, ma funzionò. E ora lascio la parola a Cristiana, che ci racconta questa storia. Lana Sirma, mostrare la vulva per allontanare i nemici. Il gesto che Caterina fece, ovvero mostrare la vulva, è molto antico ed è collegato al potere apotropaico dei genitali femminili. È chiamato anasirma, termine greco che deriva da ana, che significa su, verso l'alto, e sirma, che significa veste. Quindi, letteralmente, l'atto di sollevare la veste e mostrare i genitali. Il potere di questo atto è quello di scongiurare i pericoli e di essere uno scudo di protezione. Era considerato anche un ottimo augurio, un portafortuna, una benedizione divina ed un rimedio per infondere gioia. Si riteneva che compiere questa azione avesse il potere di proiettare l'energia benefica, l'amore, l'armonia, la bellezza e le benedizioni racchiuse nell'intimo femminile. È un rituale arcaico che venne praticato in diverse epoche e culture. Le donne alzavano la gonna e mostravano le parti intime in situazioni minacciose, come in presenza di tensioni sociali, per allontanare i nemici, contro le calamità naturali, come cita anche Plinio il Vecchio nella sua enciclopedia Naturalis Historia. Questo rito veniva usato anche come esorcismo nei confronti delle navi, che prima di salpare dovevano essere liberate dai demoni. Troviamo l'anassirma già nella mitologia. In Grecia si racconta che la dea Baubo, dea dei misteri eleusini, collegata alla fertilità e alle gioie del piacere, utilizzasse il rito sacro e che lo insegnasse alle donne. La dea Demetra lo eseguiva per propiziare la crescita del grano e per benedire la terra. Sollevava la veste e offriva alla vista la divina sorgente di vita, così che i suoi influssi benefici potessero fecondare la natura. Anche nella leggenda del rapimento di sua figlia Persefone è presente l'anassirma. Si narra che Demetra, disperata, vagasse desolata alla ricerca dell'amata figlia nei campi in cui la natura ormai aveva smesso di fiorire. Il grano aveva cessato di crescere e sulla terra era calato un lungo inverno. Giunta ad Eleusi, Demetra si sedette accanto a un pozzo, sfinita e in preda allo sconforto, quando le si avvicinò una donna. Vedendola in lacrime, la donna si alzò la gonna e le mostrò la sua intimità, danzando con gioia. Demetra in un primo momento rimase perplessa, ma poi sorrise per la prima volta dopo la scomparsa della figlia. In questo modo la malinconia si alleviò e lei ritrovò il coraggio per proseguire il suo cammino. Anche in Egitto veniva praticato questo rituale, in onore della dea Bastet. Quando le donne navigavano il fiume Nilo per recarsi alla festa a lei dedicata, si fermavano in ogni città che incontravano, attraversavano le vie facendo una gioiosa processione, suonando strumenti, cantando, danzando in modo dolce e sensuale e gridando parole di libertà. Alzavano i loro vestiti fino al pube contro gli influssi maligni. In questo modo l'anassirma serviva come amuleto per le città nelle quali veniva praticato e a proteggere le loro donne. Sempre in Egitto, anche la grande madre Iside si avvaleva di questo gesto per allontanare le energie malvagie e per liberare magia. In India, invece, la dea Maya mostrava le parti intime agli dei per risvegliarli dal loro sonno mortale, così pure la dea giapponese Uzume. Nel folklore russo troviamo racconti in cui gli orsi vennero allontanati da donne nell'atto di praticare l'anassirma, così pure anche in Lapponia, attraverso la narrazione di un medico svedese. In Giappone, con questo gesto, si racconta che un gruppo di donne avesse placato il mare in tempesta e in tempi più vicini, nel 1929, in Nigeria, le donne Aba l'hanno usato per protestare contro tasse ingiuste, riuscendo ad essere ascoltate. Riteniamo dunque che la nostra Regina di Forlì, in quanto studiosa di alchimia e tradizioni curative, conoscesse molto bene la potenza di questo gesto apotropaico e che lo abbia fatto in modo consapevole, avendo fede negli effetti psicomagici vantaggiosi che avrebbe prodotto. E infatti così fu. Torniamo a Caterina, che grazie a questo gesto rischioso di mostrare la vulva ai soldati, guadagnò tempo sui nemici, quanto bastò a permettere l'arrivo delle truppe inviate in suo aiuto da suo zio Ludovico il Moro, che mi avete sentito nominare all'inizio e che adesso entra in scena, che era il fratello di suo padre, praticamente, di Galeazzo Maria. Ed era succeduto al fratello Galeazzo Maria, che nel frattempo era stato assassinato, no? Vi ricordate? I congiurati si ritirarono. Caterina, a 25 anni, divenne signora di Forlì, a tutti gli effetti, in qualità di reggente per conto del primogenito Ottaviano. Nonostante odiasse e disprezzasse il marito Girolamo, che era quello che l'aveva stuprata, no? Vi ricordate? La sua vendetta lo stesso fu spietata contro coloro che l'avevano assassinato il marito, perché lei doveva dimostrare che nessuno avrebbe potuto togliere il potere, né a lei né al figlio. Nessuno avrebbe potuto portarle via la signoria della città, quindi non poteva dimostrarsi debole in quel momento. E infatti i colpevoli furono puniti in maniera anche tremenda. Seguì un periodo abbastanza tranquillo in cui Caterina, 26enne, governò bene pensando al benessere del popolo. Qui a me ricorda moltissimo Matilde come figura. Anche Matilde governò bene pensando al benessere del popolo. Anche Isabella, cioè sotto tutte queste regine, Rinascimento noi le chiamiamo regine, di fatto erano duchesse, erano marchese, però erano regine, erano guide del loro popolo e fu un momento, questo Rinascimento, e ancora oggi è ricordato come l'epoca d'oro dell'Italia, perché questi feudi erano ricchi, le donne governavano le loro terre come delle madri, quindi facevano in modo che tutta la loro gente avesse di che vivere, che la vita fosse facile, fosse serena, fosse abbondante, addirittura diminuendo le tasse. Quindi governò bene pensando al benessere del popolo, agevolando il commercio e l'artigianato e diminuendo alcuni dazi. Libera dai doveri coniugali, finalmente, poté dedicarsi per un po' alle sue passioni, la caccia, la botanica e l'alchimia. Vi ricordate che anche Matilde studiava alchimia, che aveva questa saletta, questa stanza nella quale si ritirava a studiare? Probabilmente quasi tutte le donne di quell'epoca studiavano le scienze esoteriche, l'alchimia, l'erboristeria. Diciamo che Caterina l'ha fatto in un modo ancora più importante delle altre, perché poi ha lasciato dei volumi scritti di cui Cristiana ci parlerà tra un attimo, quando finiamo di raccontare la storia. La tradizionale fiera di Santa Caterina, il 25 novembre di ogni anno, ancora oggi rende omaggio, l'omaggio della città di Forlì alla sua signora, che ancora oggi è ricordata ed è amata. Intanto il giovanissimo Giacomo Feo, fratello del fidato Tommaso, vi ricordate Tommaso il castellano che aveva tenuto la Rocca di Ravaldino e aveva fatto entrare Caterina in maniera che lei potesse conservare il potere? Ecco, questo Tommaso aveva un fratello più giovane che si chiamava Giacomo. Divenne l'amante di Caterina. Grazie a lui Caterina scoprì per la prima volta l'amore e la sensualità senza dolore, cioè scoprì che l'amore poteva anche essere qualcosa di piacevole, visto che fino a quel momento lei aveva vissuto solamente le violenze del marito. Quindi per lei era diventato, questo lo racconta molto bene Carla Maria Russo nel romanzo, per lei era un supplizio ogni volta l'atto fisico. Perché non c'era amore e in più lei questo marito lo odiava, perciò era una violenza continua. Invece con questo Giacomo lei scopre, Giacomo Feo, scopre la sensualità e si innamora talmente di questo ragazzo che seppure di nascosto lo volle sposare. Con Giacomo nacque il settimo figlio di Caterina, ma Giacomo Feo non era visto di buon occhio né dalla corte, né tantomeno dal primogenito, il figlio di Girolamo, quindi il figlio legittimo, il primogenito Ottaviano, perché Caterina, accecata dalla passione, dopo che finalmente aveva scoperto questa parte del suo corpo che fino a quel momento lì non sapeva nemmeno di avere, accecata dalla passione, gli aveva conferito troppi poteri nella gestione della città e lui non brillava. Purtroppo Caterina è stata sfortunata con gli uomini, nemmeno Giacomo brillava veramente per acume politico, era insomma un po' un pallone gonfiato anche lui, un po' un pavone, ecco. E non brillava certo per le sue doti politiche, proprio come il primo marito, come Girolamo. Così durante una battuta di caccia gli fu preparata un'imboscata dai cortigiani. E anche Giacomo fu assassinato. Per la seconda volta rimase vedova e questa volta però la vendetta di Caterina fu terribile, perché se Girolamo lei non lo amava, di Giacomo invece era profondamente innamorata. Quindi ne uscì pazza per un periodo, fu veramente una Erinni, una furia. Caterina rimase di nuovo sola a governare. Per un po' tutto procedette senza scosse, anche se naturalmente la vendetta fu ancora più terribile della prima volta. Ma qualche tempo dopo, quando Caterina aveva 33 anni, ci fu una grande carestia, in particolare a Firenze. e il fiorentino Giovanni Medici si recò a Forlì per acquistare derrate alimentari da portare in Toscana, perché invece in Romagna si stava bene. Caterina, che aveva sempre mantenuto con i medici un rapporto cordiale, dato che in Romagna il raccolto era stato meno scarso, accettò di vendere a Giovanni Medici un quantitativo di grano. E così i rapporti fra lui e Caterina cominciarono, dapprima commerciali, piano piano si trasformarono in stima e affetto. E iniziò così una relazione amorosa tra i due che sfociò in un altro matrimonio segreto. Segreto perché lo zio di Caterina, Ludovico Sfo Ludovico, detto il Moro, Ludovico Sforza, aveva tutt'altri progetti per lei, quindi la poveretta si doveva sposare in segreto per poter fare quello che voleva lei. Doveva tenerlo nascosto a questo zio in piccione, che però era molto potente, quindi avrebbe potuto bloccarla. Giovanni Medici era un uomo colto e intelligente, finalmente un uomo degno di lei, e venne ben accolto dai forlivesi. E fu finalmente un matrimonio felice e maturo, perché con Giacomo era stato solo un matrimonio di passione in cui lei aveva dovuto recuperare tutta una parte della sua vita che prima non c'era stata, ma non era un matrimonio alla sua altezza, tantomeno maturo. Giacomo era un ragazzotto, era più giovane di lei ed era insomma, un egocentrico viziato e che non proprio non aveva nessuna idea di come governare. Caterina e il suo consorte Giovanni Medici condividevano tra l'altro la passione per lo studio e per la conoscenza e nacque Ludovico, e quindi l'ottavo figlio, questa volta figlio di Giovanni Medici, il futuro capitano di Ventura Giovanni dalle Bande Nere, che è famoso, insomma. È un personaggio che a scuola abbiamo studiato, su cui sono stati scritti libri, fatti film e anche canti. Ma la povera Caterina non era destinata alla felicità coniugale, perché a 35 anni, dopo la nascita dell'ottavo figlio, rimase vedova per la terza volta, dopo soli 2 anni. Questo matrimonio felice era durato poco. Fatto questo veramente insolito, perché di solito erano gli uomini che rimanevano vedovi. E quella era una donna in cui era un'epoca in cui erano le donne a morire, giovani per lo più di parto, e gli uomini si risposavano diverse volte. Invece Caterina ha rotto proprio una tradizione, ha rotto la tradizione fu lei a sposarsi 3 volte e a sopravvivere a tutti i mariti. Contemporaneamente la secolare rivalità tra Venezia e Firenze peggiorò, e dal momento che i territori su cui lei governava si trovavano sulle vie di passaggio tra i due eserciti, quello di Firenze e quello di Venezia, Caterina si trovò coinvolta in questo conflitto e non riuscì, non poteva restarsene fuori, perché passavano da lì gli eserciti, sia che salissero sia che scendessero. E quindi dovette di nuovo prendere in mano la difesa di Imola e Forlì. Quindi diresse in prima persona le manovre militari, lei era capace. L'addestramento e l'approvvigionamento dei soldati, delle armi e dei cavalli. Divenne il generale praticamente delle sue città, dei suoi ducati. Nel frattempo, il cardinale spagnolo Rodrigo Borgia, il terribile padre del Valentino, che aveva tenuto a battesimo il primogenito di Caterina, Ottaviano, era divenuto il terribile e fatidico Papa Alessandro VI, che ne combinò. Lui il figlio, che poi era il padre di Lucrezia Borgia anche, no? Rodrigo. Uno dei papi ne più nepotisti, lussuriosi, corrotti e tossici del Rinascimento. Caterina inizialmente ne fu contenta perché era stato il padrino di suo figlio, quindi non immaginando assolutamente il voltafaccia che il Papa Borgia, per brama di potere, avrebbe operato. Infatti, questo uomo malefico si era alleato col re di Francia per ottenere il suo appoggio nella costituzione di un regno di Romagna che lui voleva dare a suo figlio Cesare Borgia, detto il Valentino. Quindi fece la stessa cosa che aveva fatto il Papa prima, che aveva dato i territori al nipote Girolamo Riario, il Papa Borgia li voleva dare a suo figlio Cesare Borgia. Così funzionava così all'epoca. E per giustificare lo scontro armato, il Papa accusò Caterina di aver tentato di avvelenarlo. Per prendersi le sue terre, lui accusò Caterina, che era la regina di quelle terre che lui voleva. La contessa, quindi Caterina, per contrastare l'esercito del Borgia che si era alleato con i francesi, di nuovo si preparò alla difesa della sua signoria. Arruolò e addestrò quanti più soldati poté, ammassò armi, munizioni, viveri, fece rinforzare le difese della Rocca di Ravaldino ancora una volta, inoltre mandò via i figli, mandò i figli a Firenze per tenerli al sicuro e rimase lei lì a combattere coi generali, coi suoi luogotenenti. Il generale era lei, evidentemente. Ma era uno scontro impari perché lei era da sola e si trovò di fronte all'esercito papale e all'esercito francese. Inevitabilmente, una dopo l'altra, le città della Romagna si arresero allo spietato e feroce Cesare Borgia, il quale devastava, quindi per poter sopravvivere dovettero aprire le porte della città e arrendersi, perché Cesare Borgia era capo dell'esercito francese. Finché lui arrivò a Ravaldino e la mise sotto assedio. I cannoni di Caterina continuarono a sparare per molti giorni e notti, fino a che all'inizio dell'anno 1500 i francesi riuscirono a sfondare le difese e a entrare nella fortezza. Caterina combatté come una furia fino a quando fu sopraffatta, per questione numerica proprio, e dovette arrendersi. Venne fatta prigioniera e scrive Marco Viroli o Viroli, non so come si pronunci, in Caterina Sforza, Leonessa di Romagna. I soldati italiani al bivacco cantavano con voce sommessa il lamento di Caterina Sforza, composto da un certo Marsilio Compagnon. In questo canto gli italiani, uniti intorno alla figura della contessa, venivano chiamati al riscatto e a combattere insieme per scacciare l'invasore francese. Questa è una cosa che ricorda tanto Matilde, che ricorda tanto anche Anita Garibaldi. La caduta che non a caso fu seppellita a Ravenna, quindi quella è veramente una terra che ha visto delle donne potentissime, incredibili. La caduta di Ravaldino segnò la fine del potere terreno della signora di Forlì, ma al tempo stesso l'inizio della sua leggenda. Se gli ufficiali francesi rispettavano la legge secondo la quale una donna non poteva essere imprigionata, il Borgia se ne guardò bene. Erano veramente padre e figlio. All'epoca era normale per i papi avere dei figli, ed essere enormemente nepotisti, quindi facevano i figli con le loro favorite, con le loro concubine, e poi a questi figli davano le terre. Oltretutto Borgia non erano nemmeno italiani, erano spagnoli, quindi fu proprio un sopruso terribile. Caterina fu a lungo prigioniera perché il papa la fece imprigionare con la scusa che aveva perso e con l'accusa di averlo avvelenato. E Caterina fu a lungo sua prigioniera e dovette subire abusi e umiliazioni da parte di Cesare, del figlio del Papa, il cosiddetto Valentino. Nel periodo seguente nessuno parlò più di Caterina. Sembrava che il mondo per un po' si fosse dimenticato di lei. Nemmeno i suoi figli le dettero sostegno e conforto, e fu la cosa che più le fece male, anzi le facevano pressioni affinché lei cedesse a loro le città di Imola e Forlì. Non ci furono tentativi di liberarla da parte di nessuno. Restò chiusa nella cella per circa un anno, abbandonata a se stessa. Quando Borgia finalmente cadde in disgrazia, venne liberata su richiesta delle truppe francesi, ma solo dopo aver firmato un documento con cui rinunciava definitivamente alla signoria di Imola e Forlì. Caterina fu segnata nell'anima e nel corpo da quell'anno di prigionia. Figuratevi una donna così fiera, così orgogliosa, così potente, con una stirpe, un lignaggio così regale, chiusa in prigione, umiliata, probabilmente stuprata, vessata in tutti i modi. Soprattutto amareggiata, aveva spesso la febbre ed era soprattutto amareggiata dal silenzio dei figli. A 38 anni depose le armi e decise finalmente di condurre una vita più tranquilla a Firenze, perché aveva ceduto comunque Imola e Forlì, quindi non poteva più tornarci. A Firenze che raggiunse per mare e dove finalmente si ricongiunse con i figli che aveva mandati lì perché stessero al sicuro, vi ricordate? Il suo ex cognato Lorenzo de' Medici, che era fratello di Giovanni che lei aveva sposato, era diventato tutore di Ludovico, il figlio, quello che poi diventerà Giovanni dalle Bande Nere, quindi il figlio di Caterina e di Giovanni. Inoltre si era impadronito dei beni del fratello defunto e lei, che non vedeva il figlio da anni ormai, decise di lottare per riavere la tutela, nonché l'eredità del defunto marito che le spettava di diritto. E alla fine riuscì ad ottenere entrambe le cose. e trascorse gli ultimi anni di vita nelle residenze di proprietà della famiglia del marito Giovanni Medici. Visse l'ultimo periodo di vita terrena dedicandosi all'educazione dei figli e alle sue passioni, la botanica e l'alchimia. E all'età di 46 anni, Caterina si ammalò di polmonite e lasciò il corpo. Di lei, come di altre grandi donne del passato, non rimane nemmeno la tomba. Questo amareggia noi della scuola delle donne. Poiché nell'Ottocento, questo l'abbiamo già visto, l'abbiamo già vissuto, abbiamo anche fatto le nostre preghiere, insomma, per restituire, vi ricordate Sichel Gaeta, insomma, quante volte è successo questo, no? Di queste grandi, magnifiche donne non resta nulla, né sepoltura né niente. Ed è veramente un'ingiustizia e un sopruso. Perché di lei non rimane nemmeno la tomba. Nell'Ottocento, infatti, le sue spoglie furono spazzate via durante un rifacimento del pavimento del monastero fiorentino delle Murate, dove era stata tumulata. Quindi è impossibile risalire al punto in cui era stata sepolta. Anche con Matilde abbiamo visto questo, che fu tolta, portata via da San Benedetto Po per essere portata in Vaticano. Le sue spoglie furono vendute. Insomma, è una situazione che abbiamo già visto altre volte. Quindi la vita terrena di Caterina è finita e lascio di nuovo la parola a Cristiana perché adesso ci parlerà dei libri e degli studi di alchimia di Caterina. Gli esperimenti di Caterina. La parte che riguarda gli studi di Caterina ha ricevuto meno attenzione dagli studiosi rispetto alle sue imprese militari e politiche, eppure la sua passione per la scienza medica e la cosmesi ricopre una parte importante della sua vita. Il suo non fu un interesse marginale o passeggero, il suo sapere in questo campo fece la differenza in diversi momenti della sua vita. Ella vi si dedicò per moltissimi anni e si distinse anche in questo ambito portando un grande contributo. La sua passione nacque molto presto. Fin da bambina era incuriosita ed attratta dalle erbe e dagli strumenti bizzarri che utilizzava l'erborista di corte. La piccola Caterina trascorreva molto tempo nel suo laboratorio e fu lui a trasmetterle le basi di questa arte. Nel corso degli anni, Caterina fece costruire laboratori, sia a Forlì che a Firenze, mentre nel parco della Rocca di Rabaldino i giardinieri avevano l'ordine di coltivare diverse erbe che venivano poi raccolte e lavorate direttamente da lei. Era in contatto con fornitori di spezie, con esperte erbarie, intratteneva corrispondenze con intellettuali di diverse corti per condividere gli studi alchemici. I suoi rimedi erano molto apprezzati e ricercati, rimedi che preparava personalmente e che ci ha tramandato in un prezioso volume dal titolo Experimenti della eccellentissima signora Catelina da Furlì. Un compendio di ricette di cosmesi, medicina, alchimia che lei stessa appassionatamente raccoglieva. Il volume fu ricopiato dal suo segretario, il quale poi lo donò al figlio di Caterina, Giovanni, e fu rinvenuto nell'Ottocento a Roma dal conte Pasolini di Ravenna, che lo definì il documento più completo e più importante conosciuto finora sulla profumeria e sulla medicina del principio del XVI secolo. Il manoscritto Experimenti potrebbe non essere l'unica raccolta scritta dalla contessa, perché nello stesso secolo ne venne ritrovata un'altra dal titolo A far bella. Gli argomenti trattati erano simili, pertanto poteva trattarsi di un altro libro sugli stessi temi o di una prima versione di Experimenti. Infatti, quest'ultima venne continuamente arricchita nel corso degli anni. Grazie alla continua ricerca di Caterina, allo scambio di informazioni con erboristi, alchimisti e farmacisti, ma anche alla corrispondenza tra lei e altre nobildonne. A consultare questo magnifico trattato erano per lo più le donne di corte, mogli e figlie di famiglie potenti. Sappiamo che le donne avevano tutte delle cognizioni di medicina ed erboristeria, poiché chiamare un medico era cosa rara e costosa, dunque le donne di casa erano le mediche. Ricordiamo le Mulires della medievale scuola salernitana con Trotula e Sichel Gaeta, di cui la nostra scuola si è occupata e ne lasciamo il link in descrizione. Gli speziali e i farmacisti miravano a replicare le sue formule, ma questo era concesso solo ai più stretti collaboratori. Il volume Experimenti è uno scrigno di conoscenze, frutto dell'instancabile lavoro della contessa, fatto di osservazione e sperimentazione, e contiene circa 470 ricette. Gli ingredienti sono tra i più disparati, fra erbe, fiori, spezie, polveri e anche elementi di origine animale come grassi o cartilagini. Nelle sperimentazioni veniva osservato anche il principio di similitudine, un principio alchemico in base al quale la forma e il colore di un elemento al suo stato naturale poteva suggerire l'impiego sul corpo, così come le caratteristiche di un animale, secondo questo principio, potevano essere trasferite al malato. Alcune ricette erano sperimentali, essendo combinate con la chimica, venivano fornite insieme a consigli sulle dosi. Si raccomandava di iniziare un trattamento con poco quantitativo per poi eventualmente aumentarlo dopo aver osservato la reazione. Nella parte della cosmesi troviamo unguenti per la pelle, del viso, del corpo, ricette di bellezza, colorante per capelli che utilizzava lei stessa per conferire un biondo dorato ai suoi capelli lunghi, poiché a quel tempo erano molto ammirate le chiome di quella tonalità. Inoltre composti per tonificare la pelle del corpo, per la detersione, per far crescere i capelli, per sbiancare i denti. Tra le sue ricette erano molto richieste le miscele di fiori che rendevano chiaro l'incarnato del viso. In particolare, una di queste, chiamata acqua celeste, restituiva elasticità alla pelle. Ecco la ricetta dell'acqua celeste contenuta nel manoscritto. Prendi garofani, noce moscata, zenzero, pepe lungo, pepe rotondo, grani di ginepro, cetriolo, foglie di salvia, di basilico, di rosmarino, di maggiorana fine, di menta, fiori di sambuco, rose bianche e rosse, cardamomo, cannella, canna odorosa, incenso bianco, aloe opaco, semi e fogli di anice, semi di artemisia, fichi secchi, uva passa, mandorle dolci, pinole, pinoli, mandorle amare. Prendi tanto zucchero fino a che sia il doppio di tutte le cose dette e in ogni cosa sia ben polverizzata di quelle che si possono polverizzare e le altre siano peste incorporate insieme e mettile in tanta acqua che sia tre volte e tanto di tutte le altre cose. L'acqua sia distillata 5 volte in alambico di vetro, prendendo sempre l'acqua buona. Dopo aver fatto questo, metti tutte le cose nell'acqua in una boccia ben chiusa e saldare bene e lasciare stare così per 2 giorni e poi metterlo nel suo fornello con il suo lambico chiuso e fare distillare a fuoco lento e ancora meglio a bagnomaria e uscirà un'acqua chiarissima e preziosa. Continua con il fuoco fin tanto che l'acqua non cambia colore e quando vedi che l'acqua diventa bianca, cambia recipiente e metti quell'acqua bianca, la quale serve per far odorare la faccia e la pelle, per farla chiara, pulita, colorata e toglie ogni segno e macchia dalla faccia. Per la depilazione, ecco la ricetta di Caterina. Prendi polvere di botte, farina di lupini, 2 once di alume di rocca cotto e fai bollire con un boccale di acqua. Come inizia a bollire, togli dal fuoco, filtra e lascia riposare in vaso per 8 giorni. Poi lava il punto dove vuoi che cadano i peli con acqua e a seguire bagna una spugna nell'acqua ottenuta e passala sul punto dove vuoi che cadano i peli più volte e tutti i peli cadranno e mai più ricresceranno. Produsse anche essenze profumate e pare che la profumeria fiorentina rinascimentale sia nata grazie ai suoi studi. Per quanto riguarda la salute e la guarigione, troviamo cure per contrastare febbre, tosse, vermi intestinali, epilessia, emicrania, cancro, lebbra, peste, vaiolo, rimedi per fratture, gotta, calcoli, sciatalgie, problemi di stomaco e intestino, sordità, disturbi della vista, infezioni delle vie respiratorie e urinarie, morsi di animali, oltre a sonniferi, veleni, antidoti. Un'ampia sezione è dedicata alla cura delle parti intime e alla sfera sessuale. Preparati per la sterilità, per aumentare il vigore maschile, ricette afrodisiache e anche per rimediare a gravidanza indesiderata. Non mancano nemmeno formule per creare inchiostri simpatici, ottenuti con urina e sali d'ammonio. Di rilievo erano i suoi sonniferi, da inalare o in pillole. Uno di questi aveva una composizione simile a quella degli anestetici che verranno in seguito utilizzati in chirurgia. E anche le prime formule del cloroformio derivano dal suo ricettario. da sottolineare il fatto che non aveva paura di testare su di sé i farmaci che produceva. Ecco la ricetta del sonnifero contenuta nel manuale. Prendi oppio, succo di giusquiamo, succo di papavero, succo di mandragola, succo di foglie di edera, succo di fava, succo di cicuta e metti tutto in un vaso di rame al sole o a fuoco lento. Mettici dentro una spugna e lasciala dentro finché non si asciugherà ogni cosa. Questa spugna, quando vuoi operare, falla tenere un'ora sotto al naso del paziente che si addormenterà. A quel punto potrai toglierla e operare. Quando lo vorrai svegliare, mettigli sotto il naso un po' di pane bagnato in aceto forte e si sveglierà. I rimedi di Caterina furono di aiuto a numerose persone anche quando la peste colpì la città, nel 1486 e nel 1499. In entrambe le occasioni non si fece intimorire dal contagio, al contrario, si recò personalmente tra i malati, fornendo loro cure e unguenti preparati da lei stessa. Inoltre si mobilitò anche per cercare di limitare il contagio. A quel tempo, ai primi segnali della peste, i signori venivano trasferiti dalle città alle campagne, ma Caterina si rifiutò di abbandonare la città. Divise il territorio di Forlì in compartimenti, fece chiudere le porte d'ingresso e di uscita, chiamò i medici dalle città vicine, poi fuori dalle mura fece allestire dei ricoveri per gli ammalati. Offrì viveri e medicinali, fece bruciare gli abiti e in qualche caso anche abitazioni delle persone contagiate. Chiamò in città uomini che si occupassero di trasportare i malati e di seppellire i cadaveri. Queste misure permisero di allontanare il pericolo nel giro di poche settimane. Si stima che grazie al suo intervento ci siano state solo 176 vittime. Come tutte le persone appassionate di alchimia, anche Caterina si cimentò nella grande arte della trasformazione dei metalli. Come molti ricercatori e ricercatrici, inseguiva l'elisir di lunga vita e sembra che a 40 anni conservasse ancora la pelle fresca e giovane, a differenza delle sue coetanee. Questo sicuramente anche grazie all'uso delle sue creme di bellezza. Ecco la sua ricetta per convertire lo stagno in argento, ricetta che denota come fosse esperta nell'arte alchemica e anche in quella di procurarsi le materie prime, rare e pregiate. Prendi dello stagno nella quantità che vuoi e della calce, poi tritali sopra una lastra di marmo con sale di ammonio e lava con succo di limone fin tanto che il succo non venga chiaro, poi lascia seccare al sole. Prendi poi della pece greca, che è una resina vegetale, e mettila a fondere in una cassa di ferro a fuoco lento. Quando sarà fusa, mettici lo stagno dentro e fai cuocere a fuoco lento finché la pece non si sarà consumata. Poi fondi lo stagno in verghe 3 o 4 volte e se avesse ancora qualche imperfezione, metti in una libbra di questo stagno del mercurio e fondi nuovamente tutto a fuoco forte in modo che il mercurio vada in fumo. Concludendo, Caterina è stata una donna davvero a tutto tondo, che ha unito sapienza e potenza e si è guadagnata a buon diritto un posto d'onore tra le grandi donne italiche.